Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città del Capo, siamo ritornati, potremmo dire finalmente, almeno noi lo diciamo, finalmente sulle frequenze di Radio Città del Capo. 451 Frammenti Sonori rientra nel suo consueto orario della domenica notte, quasi lunedì mattina. Abbiamo perso purtroppo per strada un paio di trasmissioni, ma ritorniamo qua assolutamente, possiamo dire, infreddoliti, ghiacciati dato il clima polare che si è abbattuto su Bologna. 451 Frammenti Sonori che vi saluta solo questa volta però dalla voce di Elisio Scarpa e ovviamente presente virtualmente, ma chissà, forse anche collegato via streaming, il mio compagno di viaggi, di questa sorta di duo che io spesso ho definito collettivo perché mi volevo lanciare verso ipotetiche soluzioni, chissà, artistico-politiche, ma in realtà due non fanno un collettivo. Dunque il buon Max Macchia vi saluta ovviamente virtualmente, io lo saluto invece via etere, non si sa mai, o via digitale, che il buon Max riesca ad ascoltarci da Londra. Dunque è andato per 451 Frammenti Sonori in terra londinese per carpire qualche informazione, qualche chicca musicale, discografica, che può esserci utile per il nostro programma. Beh, ovviamente sto scherzando, ma il buon Max da Londra sicuramente ci porterà delle buone nuove anche per la trasmissione. Dunque 451 Frammenti Sonori riparte, vi ricordo anche il nostro blog, che è un no blog, 451frammentisonori.noblogs.org, per coloro che volessero andare a spulciare un po' di vecchie trasmissioni per avere, diciamo, notizie relative ai progetti musicali che mettiamo in trasmissione, in particolare nella puntata di stasera. Può andare sul sito e può ovviamente riascoltare le puntate, oltre che avere le notizie relative alla scaletta dei progetti musicali che manderemo in onda stasera. E ovviamente siamo mancati per ben due domeniche consecutive. Quest'anno devo dire è iniziata abbastanza balbettante la trasmissione. Una volta c'è stato un problema tecnico della radio, abbiamo perso la puntata, e questa volta c'è stato un problema molto più serio, politico, delle primarie, queste ultime due domeniche, che ovviamente lo speciale di Radio Popolare Network era concentrato proprio nella nostra fascia oraria e ci ha fatto saltare la trasmissione. Oltretutto noi che siamo ben critici, molto critici rispetto alle primarie, insomma è nulla che avanza, l'abbiamo scritto anche sul blog, il nulla in termini ovviamente provocatori. In realtà chi sta progettando il prossimo governo dell'Italia, Monti sì, Monti no, comunque il centro-sinistra sembra ormai orientato, c'è da preoccuparsi rispetto alle posizioni che hanno rispetto alle politiche sociali che vogliono portare avanti, che stanno poi portando avanti. Dunque insomma, per noi è stata una doppia ferita non essere in trasmissione, anche proprio soprattutto per la presenza di questo speciale sulle primarie. Ma andando oltre, ma fino a un certo punto, dato che rimarremo anche stasera dopo l'ultima puntata ormai di ben tre domeniche fa dedicata al non lavoro, soprattutto al lavoro, purtroppo nel bene e nel male, ma nella dimensione, nel concetto che portiamo avanti, nella posizione legata al non lavoro, al rifiuto del lavoro, Arbaj McFry, che ovviamente potete trovare sul nostro blog e avere anche le notizie relative alla puntata sempre su il nostro blog. Stasera continuiamo un po' su quella traccia e riprendiamo oltretutto una trasmissione che abbiamo proprio trasmesso un anno fa, esattamente un anno fa, dicembre del 2011, che era intitolata Suburban Waves. Suburban Waves, dunque vie, strade suburbane, strade periferiche, dunque mondi legati alle periferie delle grandi metropoli occidentali, soprattutto ai tempi della crisi, insomma dal 2008 fino ad ora, la crisi che sta maciullando gran parte d'Europa e delle grandi metropoli occidentali, non solo, e anche gli Stati Uniti d'America. E su quello abbiamo costruito un percorso musicale che si basava sulla ricerca di nuove progettualità musicali che riuscissero anche a esprimere questa idea suburbana musicale attraversando ambient, techno, techno dub e dimensioni anche legate al noise e all'industrial, anche delle nuove forme musicali che si possono coniugare all'ambient e a una nuova forma di techno più evoluta, più aperta anche ai tempi attuali. E stasera riprendiamo quella tematica e appunto la puntata è intitolata Suburban Waves parte 2, l'abbiamo declinata con un sottotitolo legato appunto a sogni e incubi dalle metropoli occidentali, dalle periferie delle metropoli occidentali, e ci muoveremo sempre su questo crinale proponendo dei progetti nuovi che abbiamo, diciamo, individuato e che riteniamo molto interessanti anche in prospettiva musicale futura. E apriamo con Versailles Below, progetto di Seattle, di un'unica persona, in realtà è il personaggio Rafael Anthony Rizzarri, musicista oltretutto impegnato politicamente, stava oltretutto nel movimento di Seattle di più di 10 anni fa, che ha fatto aprire tutto il movimento No Global, impegnato politicamente e socialmente, ma soprattutto impegnato verso sperimentazioni musicali, coniugando l'aspetto analogico della sua chitarra elettrica multi effetti con l'elemento elettronico digitale, con una sorta di post-produzione, di manipolazione effettistica, creando un suono assolutamente originale che si muove proprio su questo territorio tra ambient, techno ambient e anche alcuni elementi dub che attraversano gran parte anche dei progetti di stasera. Apriamo subito, anche perché ho parlato in abbondanza, e apriamo dunque questa nuova puntata di 451 frammenti sonori su Suburban Waves 2 con Versailles Below, dall'album proprio di esordio di questo progetto, Glider, del 2009, uscito per la Ghost International. Intanto godiamocelo, poi ritorneremo per dare ulteriori notizie. Buon ascolto. E siamo rientrati in diretta dopo questo splendido lavoro, questo doppio brano che abbiamo inserito praticamente in apertura della puntata di stasera intitolata Suburban Waves parte 2. E questi suoni, ovviamente queste architetture sonore quasi costruite su delle sorte di macerie, questa è una situazione post-nucleare, post-atomica, con suoni che sembra che emergano appunto da macerie, da distruzioni, da una dimensione di ricollocazione e forse anche di presa di nuove identità, di nuove forme di reazione rispetto a una situazione devastata. Siamo partiti da Seattle appunto con questo progetto Vessai Billow, estremamente interessante. Irisarri è stato un autore che con questo progetto ha fatto uscire ben due album e alcuni EP, pur iniziando solo dal 2008, anche se ormai sono quasi due anni che non fa uscire un album intero, seppur ha fatto uscire dei piccoli EP nel corso dell'anno 2011 e 2012, ma sicuramente uno dei progetti più interessanti nella scena che noi definiamo suburbana americana, ovviamente anche contaminato da tutta una dimensione legata alle nuove forme rumoristiche noise che sono emerse soprattutto in terra newyorkese, ma non solo, seppur nel suo suono emerge molto poco, ma c'è comunque un'attitudine e una dimensione concettuale che si aggancia a progetti molto più estremi, molto più radicali sull'aspetto sonoro, sull'aspetto noise. Lui mantiene un paradigma sonoro più legato alla dimensione ambientale, anche a una retroterra legata alla techno, ma c'è comunque un'attitudine piuttosto scura, piuttosto malata, piuttosto preoccupata anche rispetto a una dimensione sonora che lui riesce a esprimere perfettamente con il progetto Vessai Billow. Ricordiamo l'album Glider, l'album di esordio del 2008-2009, perché l'uscita è proprio andata a cavallo tra il 2008 e il 2009. E adesso ci spostiamo invece in terra newzelandese, appunto il progetto che andremo adesso ad ascoltare, un progetto che anch'esso si è mosso nei primi negli anni zero, ma ha fatto uscire soltanto due album interi e qualche EP, poi negli ultimi tempi è un po' scomparso, ma devo dire che i due album sono stati assolutamente significativi nella scena anch'egli tra techno ambient e anche con venature forse maggiormente marcate rispetto a Vessai Billow, invece connessa alla dimensione dub e dubstep. E parliamo di Signer, che abbiamo inserito probabilmente solo in un'occasione all'interno di 451 frammenti sonori. In realtà Signer è Bevan Smith, anche questo è un progetto solo, seppur appunto senza il suo nome reale, quello dell'anagrafe. Signer appunto ha fatto uscire ben due album, Low Light Dreams e The New Face of Smiling, sempre per la Carpac Records. Andiamo adesso ad ascoltare proprio l'album di esordio, Low Light Dreams, splendido lavoro che appunto si muove su queste venature sonore, e andremo adesso dunque quasi a pescare, diciamo, una dimensione suburbana legata a una terra per molti versi sconosciuta qua in Europa, la Nuova Zelanda, come in parte l'Australia, anche se noi spesso abbiamo inserito progetti musicali legati a queste terre significativamente. Ricordo Venex, ma anche Three of Millions, progetti che si muovono con jazz elettronico. Molto meno invece si conosce della scena più legata appunto alla techno ambient, all'ambient noise e alla dimensione più dabbata, che invece Signer riesce ben ad esprimere con questo progetto. Andiamocelo dunque a sentire e continuiamo dunque il nostro percorso dentro le macerie e le architetture sonore di una dimensione post-atomica. Chissà, sarà forse la dimensione post-crisi che apra anche delle dimensioni di lotto, delle dimensioni liberatorie maggiori. Noi lo speriamo. Intanto ci ascoltiamo Signer. Siamo rientrati in diretta, abbiamo mixato il splendido lavoro newzelandese di Signer da Low Light Dreams insieme appunto all'ultimo brano che adesso abbiamo appena ascoltato, molto caldo, estremamente dabbeggiato, di Loshill da Sketches from Brighton, album uscito proprio quest'anno 2012. E questo è un altro aspetto chiaramente legato ai suoni suburbani, almeno rispetto a quello che noi abbiamo intercettato in questi ultimi anni, connessi anche alla crisi economica mondiale. E Loshill rappresenta sicuramente un aspetto interessante del suono suburbano, delle periferie, in questo caso un musicista abbastanza tipico canadese, ma poi si è spostato negli Stati Uniti d'America in una dimensione sicuramente molto molto particolare come quella di Detroit, smantellata già dagli anni Ottanta rispetto a tutta l'armamentario industriale. Detroit, se si va a visitare, è abbastanza particolare notare come interi quartieri sono completamente devastati, abbandonati, c'è un tasso di povertà spaventoso, una dimensione di una città che è stata lasciata a se stessa dopo l'abbandono di gran parte delle fabbriche automobilistiche, e lui si è spostato proprio in una dimensione di Detroit. E fa specie che un musicista che vive queste contraddizioni piuttosto particolari, legate appunto a una dimensione connessa veramente alle macerie, una dimensione quasi post-atomica, che riesca a esprimere un suono estremamente caldo, così suggestivo, quasi un sogno ad occhi aperti, un suono molto particolare, questo di Loshill, che in realtà è Scott Morgan, musicista che già dall'inizio degli anni zero ha portato avanti questo suo progetto, un musicista poliedrico, ha studiato a Vancouver, all'Università di Vancouver, ha studiato in particolare musicisti legati alla musica contemporanea, grande amante di John Cage, ma anche di Stockhausen, e alcuni aspetti connessi a questo tipo di passione legata alla contemporanea elettronica si ritrovano soprattutto in altri album e non in questo appunto uscito uscito quest'anno, ricordiamo ancora Sketches from Brighton, uscito oltretutto per la Cankly, che è un'etichetta che spesso andiamo a pescare all'interno di 451 frammenti sonori. Oltretutto musicista che si è anche chiaramente interessata a tutta la dimensione connessa alla musica ambient, ma anche a un certo minimalismo a cui si è avvicinato nel corso degli anni, e questa fusione musicale, questi suoi interessi l'hanno portato a sviluppare un suono sicuramente molto personale e particolare, che si muove all'interno di un techno ambient molto dabbeggiata, ma con dimensioni sicuramente molto, molto calde, in alcuni momenti anche molto solari, e questo fa sicuramente impressione, connessa appunto anche alla sua esperienza personale. È musicista che è stato prodotto quasi sempre dall'etichetta Cranky, tranne un album, l'album precedente a questo, Coast Range Arc, che abbiamo mandato in onda all'interno di una vecchia puntata di 451 frammenti sonori, e dunque lo ritroviamo per la seconda volta in questo bell'album interessante uscito appunto quest'anno. E dopo questo mix tra Signer e Loschill andiamo a pescare invece un progetto che nasce proprio a Chicago, terra fondamentale per la nascita del post rock. Infatti è proprio un elemento, un musicista di un progetto assolutamente seminale per gli anni 90, connesso chiaramente al post rock, esattamente Mark Nelson, che è stato uno dei componenti fondatori della Bradford, formazione assolutamente fondamentale nella storia degli anni 90, di una certa di un certo rock che si apriva all'elettronica, alle sperimentazioni più ardite, proprio per ridare quasi linfa vitale a una dimensione, a un linguaggio, a un genere che stava incominciando ad avere una forte crisi, che però il post rock ha solo un po' prorogato, spostando poi il rock verso altre venature, altre dimensioni. E comunque Mark Nelson, alla fine dell'esperienza di La Bradford, proprio tra il 98 e il 99, ha creato questo suo progetto, che è appunto Pan American, che abbiamo inserito credo un paio di volte in passato all'interno del nostro programma. Pan American, un progetto estremamente interessante, anche perché chiaramente si sente il punto di partenza, le basi, le origini musicali di Mark Nelson. Dunque il post rock comunque rimane sotteso come linguaggio musicale, ma all'interno di Pan American si sposta verso dei territori nuovi, soprattutto legati all'ambient, ma anche con fortissime venature dub, che andremo appunto accogliere anche nel brano e nell'album che adesso andiamo a inserire in chiusura ormai della prima parte della trasmissione di stasera. White Bird Release, uscito sempre per la Cranky, chiaramente di Chicago, nel 2008, un ottimo lavoro, molto molto aperto anche a livello sonoro. Ci sono dei brani che lasciano veramente sorpresi, tenendo conto delle origini appunto di Nelson, delle musiche che aveva portato avanti con la Bradford. Ma il brano che andiamo ad ascoltare è proprio una fusione degli elementi che ho indicato precedentemente: un ambient dub e un post rock che si trasfigura attraverso una sonorità nuova, legata sicuramente a un'altra dimensione del suono suburbano che noi immaginiamo e che noi abbiamo intercettato, in parte individuato in questi ultimi anni, dal 2008 fondamentalmente al 2012. Andiamo dunque a scovare anche questo progetto Pan American, e Mark Nelson ci aprirà, diciamo, le porte per la seconda parte, che entrerà, diciamo, più nella dimensione degli incubi suburbani. Questa prima parte è sicuramente più aperta, e per certi versi, anche se l'espressione è un po' ardita, più solare rispetto alla seconda, che sarà sicuramente più scura e anche più inquietante. Intanto chiudiamo la prima parte con Pan American White Bird Release. Ovviamente vi aspetto a rientro del GR di Radio Popolare Network, che partirà intorno alla mezzanotte e mezza. Noi ci risentiamo per la seconda parte di Suburban Waves parte 2, le ricordo anche il sottotitolo per differenziare dalla prima puntata, che fu appunto un anno fa. Il titolo appunto è Sogni incubi dalle periferie delle metropoli occidentali. Chiudiamo dunque la prima parte con Pan American White Bird Release.